ti stringo tra le braccia, dimenticando il mondo, tu sei con me, accanto a me, bambina, bambina, sulle labbra colorate, hai il sapore dell'estate, sapore di sole, un raggio di luna tra i capelli si è fermato e sul volto un po' abbronzato hai dipinto l'amore. Dai miei baci saprai quel che ancora tu non sai, che ti amo e per sempre io t'amerò. Bambina, bambina, sulla spiaggia questa sera siamo soli con il mare, io solo con te. Hai il sapore dell'estate, sapore di sole. Bambina, bambina, sulla spiaggia questa sera siamo soli con il mare, io solo con te.